Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! È il 1840. Ferdinando cede, torna agli inglesi il monopolio dello zolfo siciliano. Inaugurata la ferrovia tra Milano e Monza, boom di passeggeri. Torna in Francia il corpo di Napoleone Bonaparte, sepolto all'Hôtel des Invalides. È morto il violinista e compositore Niccolò Paganini. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. Ferdinando II aveva deciso di togliere agli inglesi il monopolio dello zolfo di Sicilia e quindi è con l'economia che apriamo questa edizione. Zolfo di Sicilia che costituisce il 90% della produzione mondiale di questo minerale, utilissimo per le aziende chimiche, affidando lo sfruttamento delle miniere ad un'azienda francese che avrebbe pagato circa il doppio rispetto agli inglesi. Le cose non sono andate come Ferdinando sperava. Sotto la minaccia delle armi della flotta britannica, il re delle due Sicilie è stato costretto a ritrattare. Il monopolio torna dunque agli inglesi e Napoli sarà costretta a risarcire tanto i britannici per i mancati guadagni quanto i francesi per la rottura del contratto. Una notizia in breve che ci arriva dallo Stato Pontificio. 27 persone si è appreso sono state arrestate a Viterbo in un'imponente operazione di polizia. Sono sospettate di essere affiliate al Giovine Italia. Verranno condannate, si presume, a pesanti pene detentive. Dopo l'inaugurazione l'anno scorso della ferrovia Napoli-Porti, ci arriva il primo tratto della Milano-Venezia. La strada ferrata percorre al momento i 13 chilometri che separano Milano da Monza e sono previste 6 corse giornaliere al prezzo di 1,50 lire per la prima classe, 1 lira per la seconda, 75 centesimi per la terza. Il successo è stato grande. Nei suoi 6 mesi di vita ha trasportato circa 150.000 passeggeri. E a proposito di innovazioni, ancora Napoli a far parlare di sé. È stato inaugurato qua il primo sistema di illuminazione a gas della penisola, dopo gli esperimenti fatti negli anni scorsi per illuminare con questa tecnica Palazzo Reale. Al momento a beneficiare dei nuovi lampioni, realizzati dopo accurati studi sui rischi per la salute, sono il Teatro San Carlo e altre importanti strade. A regime si prevede la costruzione di 408 fanali alimentati da un gas prodotto con la combustione dell'olio d'oliva. In Francia ora la salma di Napoleone Bonaparte, a quanto pare ottimamente conservata, è stata riesumata dall'isola di Sant'Elena, dove era morto in esilio, e portata a Parigi. Per l'imperatore sono stati celebrati nuovi funerali, solenni e con tutti gli onori. L'uomo che ha cambiato la storia di Francia e d'Europa è stato sepolto, come altri eroi di guerra, nell'Hôtel des Invalides di Parigi. La musica che sentite è una delle più celebri di Niccolò Paganini, tratta dal suo secondo concerto per violino e orchestra. Il grande musicista è morto a Nizza dopo anni di malattia. Il vescovo della città lo ha dichiarato empio e per questo gli è stata negata la sepoltura in terra consacrata. È tutto, sul nostro sito potete anche scaricare il nostro foglio quotidiano, visitate il blog, scriveteci a gazzettino@radio24.it. Vi ricordiamo ancora che il 12 maggio saremo al Salone Internazionale del Libro di Torino, ci sarà una puntata speciale, è previsto il pubblico, quindi vi aspettiamo il 12 alle 12, padiglione numero 2, dettagli e informazioni anche sulla nostra pagina Facebook. Da Simone Spezia che ha condotto questa edizione e l'ha curata insieme a Paolo Piacenza, una buona giornata.